Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, rimarrà ancora la zanzara oppure se ne andrà? Perderemo la zanzara oppure la conserveremo? Questo è uno degli interrogativi che tutti noi ci poniamo durante l'estate, quando il fastidioso insetto infesta le nostre case. E quindi abbiamo, per rispondere a questa domanda e anche per parlarci di chimica, di industria, di TTIP, Cosimo Franco, che è l'amministratore delegato di Endura, che forse è una delle maggiori aziende italiane, una delle più rilevanti al mondo, nel settore degli insetticidi e dei repellenti contro le zanzare. Voi pensavate che io vi stessi parlando della trasmissione di Cruciani, invece parliamo di insetticidi. Buongiorno, dottor Franco. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, io oggi voglio parlare con lei dell'Endura, che è la sua azienda, ma anche dei temi degli insetticidi, anche dei temi della chimica, dei temi della chimica organica, perché adesso sembra che tutto debba essere biologico, se no è morte, e anche di tutti quei fastidiosi luoghi comuni che ci infestano più delle zanzare, i luoghi comuni contro l'industria, i luoghi comuni che tutto deve essere biologico, che tutto deve essere per i cuochi, che tutto deve essere agricolo e che la chimica è pericolosa, che gli insetticidi sono dannosi, che tutto fa male alla salute, che il TTIP, che è un trattato che invece apre prospettive importanti, potrebbe essere un danno, perché poi oltre al luogo comune biologico naturistico d'accatto spregevole abbiamo anche il luogo comune isolazionista. È un momento nel quale siamo assillati dai luoghi comuni stupidi. Però iniziamo dalle zanzare, dagli insetticidi. Allora, che cosa fa la Endura? Ma intanto la ringrazio delle domande interessantissime e voglio tranquillizzare subito Cruciani, perché non intendiamo eliminare o togliere o fare da repellente alla bellissima trasmissione molto seguita di Cruciani. Ma alle zanzare, che voi non le uccidete, perché voi fate i repellenti. No, noi anche produciamo delle molecole che possono anche allontanare e uccidere le zanzare. Come tale, quindi, sono molecole abbastanza sofisticate e complesse che devono essere registrate e normate da tutte le autorità del mondo per poter essere vendute, altrimenti non possono essere messe in commercio. Quindi la prima risposta è: la chimica che facciamo, ma come tutta la chimica in generale, è una chimica sicura. Sì. Non cadiamo facilmente nei luoghi comuni, perché come uomini di industria e come persone di scienza, perché la chimica è una scienza chimica, è l'unica industria che coincide con una scienza. Esattamente, quindi cerchiamo di essere razionali e logici in quello che facciamo, in quello che leggiamo, in quello che promuoviamo sul mercato. Come si fa a far andare via le zanzare? Allora, intanto le zanzare, ci sono approcci molto semplici e che sono quelle di agire in modo precauzionale, togliendo le acque di scarico, togliendo i sottovasi, quelle le mie cose. Però ci sono poi elementi molto grandi come laghi, fiumi. Sì. E come il vostro repellente è domestico o anche per ambienti più grandi? Voi fate per esempio i repellenti da mettere quando nei giardini condominiali si fa la disinfestazione? Sì, ci sono anche quelle molecole repellenti di quel tipo, anche principi attivi, quindi che ammazzano le zanzare, che intervengono anche a livello larvale, e quindi anche quando le municipalità trattano si rivolgono a gente specializzata a cui noi vendiamo i principi attivi che poi agiscono. E i principi attivi principali quali sono? Ma adesso dovrei scendere nel ce campo, lo dica velocemente, nel campo in modo della chimica. Sono molecole che hanno effetti, tecnicamente parlando, hanno effetti di knockdown, cioè abbattono le zanzare. Knockdown, abbattono le zanzare o diciamo gli insetti in generale. Oppure hanno effetti di killing, ovvero uccidono le zanzare o gli altri insetti, oppure hanno effetti repellenti. Hanno queste tre combinazioni. I repellenti sono a base ormonale? No, in questo caso non sono a base ormonale. Noi abbiamo un importante repellente che si chiama Saltidin, che in questo momento è ribaltato alle cronache. Perché il Saltidin che producete voi è quello che allontana le zanzare che sono portatrici della zika. Sì, ma non solo quelle, anche non si dimentichi le zanzare che sono portatrici della malaria o della febbre dengue, ce ne sono parecchie di potenziali malattie. Cioè allontana tutte le zanzare, perché sì. Poi la zika è un batterio che viene trasmesso dalle zanzare. Esattamente. Quindi dicevo, adesso questo problema che tutti quanti noi sappiamo sul Brasile, che è un problema abbastanza importante e serio, questo è un elemento in più per dimostrare che la chimica, se ben gestita, se ben fatta, può risolvere problemi seri per la, per l'umanità, diciamo. Io credo che in Brasile il problema sia anche di come vengono tenute le strade, perché nelle strade poi si formano acquitrini, pozzanghere, pozze d'acqua che durano una vita, quindi sia anche un problema urbanistico. Abbiamo mandato in onda la settimana scorsa una puntata dedicata alle aziende italiane che fanno le spazzatrici per le strade. Uno dei mercati prospect più interessanti è quello del Brasile, perché in Brasile è ancora tutto fatto a mano. In tutto il Brasile ci sono solo 10 spazzatrici automatiche e solo nella città di Rio ci sono alcune migliaia di spazzini. Quindi forse anche nasce magari dalla urbanistica, dalla gestione delle città il problema. È probabile sicuramente che il problema specifico della Zika venga anche da queste componenti, ma lei non si dimentichi che le zanzare in Africa, le zanzare anofale che sono portatrici della malaria, non hanno nulla a che fare con quel tipo di problema urbanistico. E c'è un problema serio: di malaria ne muore circa 1 milione l'anno di persone, purtroppo. E noi su questo fronte collaboriamo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità per sviluppare anche la potenziali. Ma certo, perché la chimica fa bene alla vita, la chimica è favorevole alla vita, la chimica è salute, la chimica è sviluppo. Basta con questi luoghi comuni che sono assolutamente insopportabili e detestabili, anche per quanto riguarda il settore dei fungicidi e degli erbicidi. Se non ci fossero gli agrofarmaci, che adesso sembrano una cosa dannosa, pericolosa, ah oddio gli agrofarmaci, non ci sarebbe cibo da mangiare, perché le superfici coltivabili sarebbero nettamente inferiori. I bambini morirebbero di fame se non ci fossero gli agrofarmaci chimici. Quindi smettiamola di dire queste stupidaggini che proprio non si possono più sentire. Ormai tutti i giorni si sente dire solo questo. A me fa molto piacere che le dica questo anche con questa passione. Noi ci mettiamo passione in quello che facciamo, ma io le approfitto per dirle. Attualmente nel mondo siamo 7 miliardi. Le proiezioni dicono che al 2050 saremo 10 miliardi e avremo bisogno più 50% di cibo. Quindi non vedo modo di poter soddisfare le esigenze primarie di tutta la popolazione mondiale senza avere un intervento logico della chimica che, grazie alle sue capacità, che sono poi fungicidi, erbicidi e insetticidi, sono queste tre categorie di prodotti. Ma anche fertilizzanti. E i fertilizzanti sono chimici. Ma anche fertilizzanti, ma tutto quello che noi abbiamo qui intorno è chimica. Poi si dice che i cosiddetti prodotti bio utilizzati senza fungicidi ed erbicidi siano migliori. Io mi ricordo un articolo di Elena Cattaneo che dice che non c'è nessuna prova scientifica che siano migliori per la salute quelli piuttosto che quelli coltivati con erbicidi, fungicidi e insetticidi chimici. Prodotti che, se non ci fossero, farebbero morire gran parte delle colture. Ma guardi, ma qui entriamo in un campo interessante dal punto di vista comunicativo, però un campo dove vige la completa irrazionalità del consumatore. E davanti a questo l'unica arma che tutti quanti noi abbiamo, compresa l'industria chimica, è quella di mettere sul tavolo ragionamenti logici per dire: guardate che le cose non stanno proprio in questo modo. Però è un fatto anche di educazione, e quindi credo che anche la cittadinanza mediamente deve anche affrontare questi temi. La cittadinanza viene bombardata da un mare di stupidaggini. Non sono idee diverse, non sono idee progressive, sono proprio stupidaggini. Sì. È come uno che mi viene a dire che metto la moneta nella Coca-Cola e si scioglie la moneta. Siamo a quel livello. Sì, ma proprio per questo motivo qui è necessario assolutamente promuovere un'immagine e far sì che la gente capisca la parte scientifica, perché sempre di più dobbiamo essere attrezzati per filtrare i messaggi che arrivano in continuazione. Ci siamo bombardati, dobbiamo essere più attrezzati dal punto di vista scientifico, per farla breve. Senta, ecco, ma torniamo all'Endura. Allora, è un'azienda che fa 42 milioni di euro di fatturato, è un'azienda che ha uno stabilimento a Ravenna e una a Calcutta e che sta crescendo significativamente nel mondo. Ci può raccontare brevemente quali sono le linee di sviluppo e dove va questa azienda? Sì, volentieri. La società è una società privata, i cui azionisti sono a Bologna, io faccio l'amministratore delegato e abbiamo delle linee di sviluppo importanti. Vorremmo diventare sempre di più a livello mondiale, lo siamo già, ma dobbiamo consolidarci, facciamo molte innovazioni, investiamo molto in ricerca e sviluppo e, visto per le dimensioni aziendali, non siamo una grandissima azienda, ma siamo un'azienda di medie dimensioni, cerchiamo di compensare le dimensioni, collaborando a livello mondiale con le grandi aziende multinazionali e quindi e con centri di ricerca importanti. Quindi, collaborando nel senso che voi fate solo alcuni pezzi della catena del valore, in certi casi prendete molecole in licenza, le sviluppate, le producete, in altri casi magari sarete voi a dare le molecole in licenza ad altri. Esattamente, esattamente. No, quello che cerchiamo di innovare lo brevettiamo e quindi ci poniamo con un rapporto quasi paritario da questo punto di vista con le imprese anche più grandi della nostra, e quindi possiamo dialogare per cercare di creare qualcosa di concreto. Io dico sempre, facendo esempi molto semplici e banali, che se una ruota, lei è una ruota, insieme abbiamo una bicicletta. Facciamo questo. Senta, ma il mercato degli insetticidi nel mondo è in crescita, no? Sì, è in crescita. Diciamo che nei paesi sviluppati, nei paesi industrializzati, cresce con la media del GDP, scusi. Mentre nei paesi in via di sviluppo, penso in questo momento all'India, dove siamo presenti e conosciamo molto bene quel mercato, cresce mediamente di 2-3% in più del GDP. Ah, interessante. Sì. Il punto è questo, che in India, come in Cina, come in altri paesi in via di sviluppo, c'è una fascia media che sempre di più diventa grande. Aumenta la classe media. Aumenta la classe media, quindi la classe media cerca di... Si compra anche gli insetticidi da tenere in casa. Esattamente. Mentre invece prima c'erano strumenti più artigianali, tipo le tende, le zanzariere, cose di questo genere qua. Ma guardi, anche in India, torno a ripetere, è un mercato che conosciamo abbastanza bene. Lei deve sapere che anche la persona più semplice, più povera indiana, ha due problemi al giorno. Quello di trovare qualche rupia, che è la moneta indiana, per comprare un po' di cibo, e quello di comprare una spiraletta di insetticida per dormire la notte. Ah, perché sennò non solo ti pungono, ma riesci manco a dormire. Esattamente. Bene, ci interrompiamo un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, oggi puntata alla chimica, dedicata alla chimica, anzi tutto questo weekend di Fabbrica 2.4 è dedicato alla chimica. Adesso stiamo parlando con Cosimo Franco, che è amministratore delegato dell'Endura e ha anche molti altri incarichi nel settore chimico. Domani ci sarà invece alle 13.15 una puntata dedicata alla Proter, cioè a questa azienda che propone iniziative innovative chimiche a Terni, dove prima c'era un distretto che è morto. Quindi oggi Chimica 1, domani Chimica 2. Ma veniamo al nostro amico Cosimo Franco, che ha appena finito di parlarci di zanzare, di Endura, di insetticidi, di repellenti. Lui è anche responsabile, presidente della task force americana di aziende che si fanno rappresentare dall'EPA. L'EPA è come l'FDI, cioè è un'autorità che deve approvare gli insetticidi, e c'è una task force che rappresenta gli interessi di alcuni produttori, e lui ne è presidente, si è preso un bell'onere, è sempre a New York, vero? A Washington. È sempre a Washington, è sempre in giro, almeno così lui racconta, poi magari va a divertirsi, c'ha l'amante americana e alle riunioni si collega in videoconferenza e lui è a Las Vegas, vero? Magari. Allora, le aziende sono Johnson, Endura, che è la sua azienda, Sumitomo, CLS e Tagasaco. Ci spiega che cos'è questa task force e a che cosa serve? Allora, negli Stati Uniti, che sono da questo punto di vista molto organizzati, l'AEPA, che è l'Environmental Protection Agency, chiede alle imprese che vogliono immettere sul mercato americano, statunitense in particolare, delle molecole che hanno un impatto nei confronti delle persone, nei confronti dell'ambiente, queste molecole devono essere registrate. Bisogna dimostrare che non fanno male e non inquinano. Quindi lei può fare questo tipo di richieste che loro fanno, di dati tossicologici, lo può fare come azienda privata, come azienda sua in singola, oppure per evitare, oppure per assorbire i costi notevoli che ci sono per sviluppare questi dati, si può consorziare. Alle volte i costi per sviluppare questi dati sono superiori rispetto ai costi per lo sviluppo delle molecole? Ma addirittura alcune volte anche per produrre le molecole e costruire gli impianti. Per registrare e sviluppare tutti i dati tossicologici, parlo di dati di carcinogenicità per esempio, o di mutagenicità, bisogna investire intorno ai 30-50 milioni di dollari per sviluppare questi dati. E voi fatturate 42? Allora noi cosa facciamo? Ci mettiamo in cooperazione con altre aziende dove abbiamo gli stessi interessi, gli stessi problemi, per difendere queste molecole e dimostrare all'AIPA che non abbiano, che queste molecole che noi mettiamo sul mercato statunitense non hanno problemi. Però è un continuo ping pong con l'AIPA, perché l'AIPA, man mano che passano gli anni, richiede sempre nuovi dati, nuovi studi, nuove scoperte, quindi l'AIPA chiede alle task force varie, ce ne sono molte, di sviluppare questi dati, e per legge bisogna svilupparli, perché altrimenti se entro una certa data detta dall'AIPA non si sottomette all'AIPA lo studio, quella molecola non può essere più venduta. Però poi c'è anche un'autorità europea che fa queste cose, oppure avviene in Italia come per i comitati etici per i farmaci? No, da qualche anno, da esattamente la legge, il nuovo regolamento europeo simile a quello dell'AIPA è entrato in vigore dal 1° settembre 2015. Quindi c'è un regolamento europeo, e quindi tutti gli stati membri, a questo punto 27, ma anche la Gran Bretagna, che continuerà a far parte di questo sistema, perché penso non posso uscire fuori da questo sistema qui, continuerà la Commissione europea a chiedere dati alle imprese europee, e non solo europee, chi vuole mettere queste molecole, che possono essere insetticidi, erbicidi, ma anche fitofarmaci, metterlo sul mercato europeo. Quindi deve, c'è un'autorità europea che si chiama? Sì, che si chiama Commissione Europea dei Biocidi. Ah. E le procedure per la produzione di questi dati sono diversi tra la EPA e la Commissione Europea dei Biocidi? Di fatto l'ente competente è la ECHA, l'Environmental Chemical Agency di Helsinki. Le procedure possono essere diverse, certamente. E quindi uno deve raddoppiare il costo negli Stati Uniti. Esattamente, proprio così. Tante volte i dati che ho sviluppato negli Stati Uniti, ragionevolmente la EICA può accettarli, oppure dire a me non piacciono, tu me li rifai. Ecco, questa cosa a me interessa molto per far capire ai nostri ascoltatori quanto può essere importante un trattato come il TTIP che unifica dal punto di vista commerciale Stati Uniti e Europa, perché vuol dire ad esempio che c'è una unica autorità che esamina tutto questo. E quanto invece è anche importante essere in Europa, e perché gli inglesi uscendone ne hanno dei danni? Perché per esempio gli inglesi dovranno farsi la loro autorità in questo settore, come in molti altri settori industriali, con un aggravio di costi e di procedure che ostacolano il commercio e quindi ostacolano l'industria. È giusto, dottor Franco? Più o meno molto corretto. Non è che ci sarà una sola autorità. Le due autorità verranno mutualmente, si riconosceranno a vicenda. Per cui se io ho dei dati che ho sviluppato e mi sono stati approvati dalla EPA negli Stati Uniti, quei dati tranquillamente li posso far vedere alle autorità europee e non avranno nulla da dire, perché sono stati approvati da un ente importante. E così e viceversa. Quindi pensi se l'Europa non ci fosse, perché alle volte la gente non sa come funziona l'industria, per cui crede ai vari Salvini o gli altri che farebbero la nostra rovina, crede quando dicono che l'Europa è inutile. Se l'Europa non ci fosse, noi solo per questa cosa qui dovrebbe esserci una cosa tipo l'EPA per ognuno degli stati, con la documentazione tutto diversa. Un casino pazzesco! Assolutamente sì, mi viene in immagine adesso come l'iceberg. Ci si fa vedere la parte emersa, ma sotto c'è un qualcosa di enorme. Verremmo spazzati via. Assolutamente sì. Ma uno dice, perché ne parli in una trasmissione che si chiama Fabbrica 2.4? Perché verrebbe spazzata via la nostra industria. Sì, l'industria, diciamo in generale italiana, ha già delle sue debolezze intrinseche, perché è piccola azienda, sappiamo, non dobbiamo dire nulla di più. E quindi c'è sicuramente la necessità di fare squadra, di fare gruppo, di avere normative comuni che aiutano le imprese ad evolversi. E quindi per un'impresa che vuole poi andare negli Stati Uniti o nei mercati anche emergenti, se non è strutturata, non ha dietro una competenza, non ha dietro un'Europa che fa da apripista, fa molta più fatica, si diventa solitari. E per le piccole imprese italiane, piccole e medie, diventa una partita molto più difficile. Assolutamente sì, però siccome diventa comodo dare la colpa a Bruxelles di tutto quello che non va, perché significa deresponsabilizzarsi, perché è un'entità lontana dove non si capisce bene chi ci sta, tante volte l'Europa diventa il capro espiatorio, anche una demagogia facile, e dunque però poi si producono danni. Sì, da questa situazione secondo me se ne esce con più Europa, non con meno Europa. Il paradosso è che ci vuole più Europa per risolvere i problemi, non meno Europa. Ma secondo lei, ecco, la chimica poi è un settore particolarmente sottoposto alle normative, tanto che lei all'interno di Federchimica è anche responsabile del programma Responsible Care, che assicura la sostenibilità delle produzioni delle aziende chimiche. Ma Questo programma è europeo oppure italiano? No, il programma è mondiale. Il programma è mondiale, di rivista chimica mondiale. Poi ovviamente l'Europa tramite il CEFIC, che è l'organizzazione della Federazione Chimica Europea, e poi Federchimica in Italia, lo implementa, in questo caso in Italia, come la Federchimica equivalente in Germania, implementa il programma Responsible Care in Germania. Il programma Responsible Care cosa fa e cosa vuole dire? È un programma che è nato in modo spontaneo ormai quasi 30 anni fa dall'Associazione Chimica Canadese a seguito di due fatti drammatici dell'industria chimica, l'evento di Bhopal e l'evento di Seveso. Quindi l'industria chimica ha detto: cosa possiamo fare noi per migliorarci al di là della legge? Dobbiamo lavorare in modo più etico, stare attenti alle possibili conseguenze delle nostre azioni. Quindi si sono dati un codice deontologico che è il programma Responsible Care, che poi alla fine... Infatti adesso la chimica funziona pulita, ha un tasso di morti sul lavoro, ha un tasso di incidenti che forse è il più basso di tutte le altre industrie. No, le posso dire, io il dato italiano, visto che sono presidente del programma, ce l'ho ben in testa. Il dato italiano dice che il settore chimico, l'industria chimica, insieme all'industria petrolifera, è la più sicura dove lavorare. Ah, ma sicuramente. Sono dati che non diciamo noi come Federchimica, lo dice l'INAIL. Non muore nessuno. Lo dice l'INAIL. Forse muoiono i pochi morti sono per gli incidenti stradali durante i trasporti. Sì, anche perché in quell'altro è un parametro interessante, perché purtroppo nella contabilità di queste cose, degli incidenti, anche gli incidenti in itinere vengono contabilizzati nell'ambito del settore del ma certo, per un motivo assicurativo, perché tu comunque stai lavorando e hai diritto agli indennizi relativi, però poi non sono cose riferite all'industria. Esattamente. Per concludere, ma quelli che dicono quindi che il TTIP è un complotto contro le nostre industrie, una roba della massoneria internazionale, che cosa gli diciamo? Cioè, quali rischi corrono le nostre industrie per il TTIP? Ma a me un po', scappa un po' da ridere quando sento questo tipo di affermazioni. Invece è un accordo tra le parti, in questo caso tra le due sponde dell'Atlantico, che aiuta molto le imprese a evolversi, li costringe ad organizzarsi, però apre dei mercati enormi che prima sono inaccessibili. Penso alle piccole e medie imprese italiane che hanno bisogno di internazionalizzarsi. Probabilmente quello è sicuramente un veicolo per aiutarle a far questo. Ecco, la chimica è uno dei settori portanti dell'industria dell'economia italiana e nel 2015 è andata benissimo. Più 4,5%, un risultato straordinario. In un paese che si dice sempre che dovrebbe affidarsi ai cuochi, alle opere d'arte, alla bellezza, cose assurde. E deve questo alla forte internazionalizzazione. Quindi se con un trattato come questo anche altri settori potessero internazionalizzarsi fino a tal punto, ne avrebbero dei benefici notevoli, vero dottor Franco? Assolutamente sì. Purtroppo il tempo è tiranno, ma è interessante parlare con lei, quindi penso che nelle prossime puntate l'avremo ancora nostro ospite. Intanto la devo ringraziare e salutare. Anche da parte mia molte grazie. Domani ore 13:15 si parla ancora di chimica con l'avventura di Proter, che tra l'altro ha in programma di fare molte assunzioni, quindi se avete dei figli che sono laureati, che sono interessati, seguite questo programma perché Proter assume. A presto, arrivederci e buon sabato.